Gastronauta di Davide Paolini. Buona giornata a tutti. Ebbene, oggi parleremo di vino, ma di vino in modo molto particolare. Parleremo di quella scritta, quella piccola scritta che è in molte bottiglie dove leggiamo contiene solfiti. Ebbene, cosa sono questi solfiti? A che cosa servono? Se ne può fare a meno? Ebbene, è un interrogativo di questa puntata. Quindi, chi volesse intervenire, oltre ovviamente i nostri ospiti, numero verde 800 24 0024, messaggi SMS 349 238 6666. Ma può continuare anche su Facebook Gastronauta e anche sul sito www.gastronauta.it. E allora cominciamo a parlare di questo argomento con un professore universitario, nonché anche enologo, Leonardo Valenti. Buongiorno Valenti. Ciao, buongiorno, buongiorno ai tuoi radioascoltatori. Allora, io ti leggo un testo che dice: l'enologia corrente ritiene indispensabile l'impiego dell'anitride solforosa perché consente di mantenere sotto controllo lo stato microbico e ossidativo del mosto vino con relativa facilità e consentendo al minimo le spese. Allora, ti chiedo, è impossibile non utilizzarla l'anitride solforosa in un processo di vinificazione? Secondo me è un argomento che bisogna che in qualche modo affrontiamo e ci confrontiamo. Penso che non è vero che non si può fare a meno dell'anidride solforosa. Il problema è che dipende da che tipo di viticoltura e che tipo di enologia stiamo parlando. Certo che su processi di massa in cui il rapporto con il vino stesso diventa piuttosto diciamo molto leggero, senza grande attenzione, o con uve che hanno particolari problemi che possono essere legati ai marciumi o problemi fitosanitari in generale, è molto più difficile riuscire a fare qualcosa senza l'anidride solforosa. E qui è il primo punto, secondo me. Il secondo punto è che per fare questi tipi di vini, tu sai che io mi ci sto cimentando sia bianchi che rossi e siamo riusciti a fare qualcosa, e il problema è sempre la materia prima. Si deve partire con delle uve che siano perfette dal punto di vista sanitario, dal punto di vista della maturazione, e per cui tu assecondi un processo di naturalità di queste uve. Se così non è, gioco forza, deve entrare in gioco anche l'anidride solforosa. Bene, rimani con noi, sentiamo Ruggero da Padova, un radioascoltatore. Buongiorno Ruggero. Buongiorno Davide, volevo sapere perché quando bevo vino con i solfiti mi viene mal di testa. Bene, allora guarda, questo argomento avremo subito dopo un'allergologa alla quale rivolgeremo, l'abbiamo chiamata appunto per questo, per capire, perché sono molte le segnalazioni anche che ho avuto sul mio sito di questo interrogativo. Volevo tornare a Valenti, so che hai curato la produzione di un vino per l'azienda agricola Bisi, un vino che ha un nome anche molto molto divertente, perché mi sembra che si chiami senza nulla, senza una cosa di questo genere, vero? Senza aiuto. Ecco, questo è ancora una logica superiore rispetto a quello che stiamo parlando, ovvero sia abbiamo provato, fatto un vino integrale, ovvero sia senza mettere mano praticamente, dopo aver raccolto le uve pigia di raspate non abbiamo fatto più nulla. Però in questo stadio qui bisogna avere un'attenzione maniacale, un controllo giornaliero di tutto il processo, bisogna veramente avere la potenzialità per fare questo, e naturalmente non può essere fatto su tutta la produzione di un'azienda, perché sennò il rischio è molto elevato e naturalmente può portare anche degli insuccessi che ci stanno in questo tipo di approccio. Un'ultima domanda, c'hai 60 secondi, è questa, ma questi vini diciamo al gusto, dal punto di vista organolettico, possono essere diversi, possono apparire diversi? Sì, senz'altro sono diversi. Perché la tecnica di lavorazione è una sicuramente confonde e diversifica il prodotto, anche se poi una barbera rimane una barbera, un cabernet rimane un cabernet, ma possono avere sfumature e sfaccettature diverse. Bene, grazie Leonardo Valenti. Linda da Pisa, 30 secondi a lei. Sì, buongiorno, volevo confermare possibilmente il consumo di vini a chilometri zero. Mio padre ne produce e senza solfiti, noi lo vendiamo, è per consumo personale, e purtroppo io quando consumo vini della stessa qualità con solfiti mi rendo conto di avere delle, proprio oltre mal di testa, anche a volte altri problemi, non solo io ma in tutta la mia famiglia e gente che conosciamo. Possibilmente, secondo me, il vino migliore deve essere a chilometri zero, proprio per poterlo anche trasportare senza solfiti o altri prodotti simili, penso. Bene, credo comunque si possa andare anche oltre il chilometro zero dei vini senza solfiti, poi magari questo lo vedremo. Eccoci di nuovo a parlare di vino e a parlare di solfiti. Io vedo già non so quanti sms che parlano appunto di disturbi dai vini che contengono solfiti. Io vorrei fare innanzitutto un chiarimento, credo che sia importante, perché forse molti radioascoltatori che stanno mandando degli sms in proposito non si rendono conto che quando sulla bottiglia c'è scritto contiene solfiti, non è che sono solfiti aggiunti in molti casi, ma sono semplicemente, possono essere diciamo i solfiti che sono provocati naturalmente dal vino. E c'è un limite dato dalla legge che dice di mettere questa dicitura, e quindi molte volte diciamo può esserci che non ci sia aggiunta di solfiti, però bisogna mettere questa indicazione. Molti produttori aggiungono non contiene solfiti aggiunti, quindi diciamo che ci sono appunto queste varie come posso dire interpretazioni da tenere ben presente. Allora, visto che il tema è proprio mal di testa e problemi, io sento subito la dottoressa Antonella Murano, allergologa del Dipartimento Pediatria di Padova e che si occupa appunto di allergie alimentari, e gli chiedo: ma i solfiti nel vino possono sempre dare mal di testa? Buongiorno dottoressa. Buongiorno, non necessariamente, anche perché le quantità che attualmente sono presenti, come lei ha citato, sono per legge, devono essere per legge sotto i 10 ppm, che sarebbe la soglia, 10 ppm è 10 per milione, quindi è la soglia in cui secondo la legislazione europea recepita dall'Italia il vino deve può essere dichiarato con solfiti aggiunti. Come lei ha detto giustamente, senza solfiti aggiunti vuol dire che i solfiti presenti possono derivare semplicemente dalla fermentazione naturale del vino, che di per sé può produrre quantità irrilevanti di solfiti. Solo persone estremamente sensibili, cioè con bassissime soglie, hanno reazioni a questi solfiti e le reazioni a queste tracce di solfiti, e le reazioni sono in genere scatenate, sono in genere manifestazioni cutanee, dalla dermatite da contatto all'orticaria a una rinite persistente, vale a dire dopo aver bevuto il vino se hanno sintomi di tappamento di naso, colo di naso continuo, e poi nei casi più significativi crisi d'asma. Quindi in genere gli asmatici, soprattutto se sono asmatici con una certa significativa asma, sono più esposti ad avere reazioni da solfiti. E quindi in questo momento credo che gli effetti da mal di testa possano essere attribuiti ad altre cause, sono più rare perché sarebbero effetti neurotossici che si sviluppano per dosi molto più elevate di quello che la legislazione consente. Infatti ho già avuto un sms di un radioascoltatore che parla di broncopasmo, quindi sicuramente esatto, il broncospasmo è proprio, il suo ascoltatore ha una reazione da solfiti. Perché in genere la diagnosi si fa sia con la storia del paziente, che appunto riferisce di avere un peggioramento della sua asma o una crisi d'asma se la sua asma è controllata, dopo assunzione di vino contenenti solfiti. Le reazioni dipendono, sono molto individuali, perché dipendono dalla soglia di ciascun paziente, quindi c'è il paziente che ha una soglia molto bassa, per cui bastano tracce di solfiti a scatenare il problema, e ci sono pazienti che tollerano invece quantità più alte. Bene, rimanga con noi, sentiamo. Grazie. Erasmo da Milano, un radioascoltatore, buongiorno Erasmo. Buongiorno a lei. No, io mi permetto di segnalare un'azienda che è uscita proprio qualche mese fa, un'azienda del Veronese, tenuta a Sant'Antonio, non so. Sì, guardi, la fermo subito perché avremo proprio il patron in linea fra poco. Grazie. Bene, e ora abbiamo un altro produttore in linea, Alessandro Ceretto dell'azienda Ceretto. Buongiorno Alessandro. Ciao Davide, buongiorno a tutti. Tu tempo fa mi hai parlato di macchinari che possono addirittura appunto supplire ai solfiti. Ci sono dei macchinari particolari, diciamo, in circolazione, in progettazione di questo genere? Sicuramente adesso si parla molto di queste tipologie di vini, perciò la tecnologia arriverà a trovare appunto delle macchine per sopperire queste, appunto l'aggiunta di solfiti. però per me il non aggiungere solfiti vuol dire produrre dei vini naturali, perciò intervenire in un altro modo forse non sarebbe il modo giusto per produrre appunto vini senza solfiti. Ecco, non è che si può, diciamo, usare chimica in vigna e poi non mettere solfiti, credo che questo non sia possibile, cioè bisogna partire dall'inizio del grande processo di produzione per arrivare in fondo, quindi diciamo avendo tutta una serie di cautele. Guarda, i primi produttori che hanno incominciato a fare vini senza solfiti sono sicuramente francesi, ti posso citare Auvernois nello Jura, Grand Menon e D'Arte Ribon nella Valle del Rodano, Marcel Lapierre nel Beaujolais, ma in Italia ci sono i produttori come Angiolino Mauli che sono ancora più avanzati nella ricerca. I primi che ti ho citato non aggiungono i solfiti perché credono che la solforosa vada ad ammazzare una parte di lieviti che poi contribuisce alla complessità aromatica appunto del vino stesso. Mentre Angiolino sta cercando di addirittura eliminare lo zolfo in vigna per lo stesso motivo, perché prima in vigna viene utilizzato in quantitativi sicuramente maggiori ed ha lo stesso, come si può dire, azione su determinati microbi che possono essere antagonisti naturali di quelle malattie che noi andiamo a combattere, come lo idio, con l'utilizzo di zolfo in vigna. Bene, quindi tu mi hai sostituito benissimo Angiolino Maule, che avevo chiesto di intervenire, purtroppo era impegnatissimo, e quindi tu lo hai supplito appunto con la sua ricerca. Sentiamo Marco da Roma, buongiorno Marco. Buongiorno a lei, volevo solo chiedere come faccio a riconoscere un vino senza solfiti dall'etichetta che c'è sempre scritto contiene solfiti. E poi volevo chiedere, è vero che i vini bianchi sono più carichi di solfiti? Bene, diciamo che lo può distinguere perché molti mettono senza aggiunta di solfiti, quindi è l'unico modo, è l'unico modo per riuscire a capirlo, quindi sicuramente non c'è altro modo. Ora, sui vini bianchi rispetto ai vini rossi, chiediamolo alla dottoressa Murano. No, di solito effettivamente viene per l'impedimento, l'effetto dell'impedimento e la prevenzione dell'imbrunimento che fosse non enzimatico creato dai solfiti, prodotto dai solfiti, i vini bianchi possono contenere un po' più di solfiti rispetto ai vini rossi. Io cercherei, se posso permettermi, di sfatare un po' il mito, perché abbiamo una legislazione abbastanza severa e quindi i nostri vini in linea di massima rimangono nei limiti dei 100 ppm e non vanno come in alcuni vini stranieri a 250 e anche 500 che si possono trovare. Ripeto, la legislazione è severa, sopra i 10 è necessario dichiararli e quindi è obbligatorio dichiararli e credo perché pertanto se lei prende un buon vino si mantiene su un livello inferiore ai 100 ppm di solito, non dovrebbe avere problemi se è una persona senza senza malattie, vale a dire se non ha l'asma e se non ha altri problemi. Deve anche considerare che l'anidride solforosa è aggiunta in moltissimi alimenti, quindi il concetto è di muoversi tutti insieme verso l'eliminazione di questi additivi, perché non c'è soltanto il vino, ci sono tantissimi alimenti conservati che contengono solfiti, quindi non vorrei che arrivassimo ad eliminare una cosa dalla finestra e prendercela dalla porta. Bene, io la ringrazio per la sua chiarezza, straordinaria chiarezza, grazie dottoressa Murano. Bene, abbiamo un produttore in linea, un produttore Bisol, Desiderio Bisol, che ha messo in vendita un vino che si chiama NO SO2. Allora chiedo a Bisol, soprattutto, quali sono state le reazioni del mercato a questo prodotto, Bisol? Sì, buongiorno a tutti. Posso dire che è stata un'innovazione vera e propria, nel senso che anche noi stessi abbiamo iniziato verso questa strada senza sapere poi come avrebbe reagito il consumatore finale. Devo dire che la reazione è stata molto interessante perché ha riconosciuto che non è una copia di un vino in cui si aggiungono i solfiti, ma è un vino che ha una sua personalità a sé stante e questa è una cosa secondo me già importante come risultato, per cui l'affezione diventa già alta, diciamo, da parte di chi lo consuma. È molto importante, come si diceva in precedenza, dividere tra chi è allergico e chi è sensibile, perché chiaramente chi è allergico ha dei problemi molto importanti, non solo con il vino ma anche con altri alimenti, e chi è sensibile invece nota la differenza anche di un piccolo quantitativo che può essere aggiunto in meno. È stata una ricerca iniziata con degli studi universitari e poi portata avanti in cantina che ci ha permesso di ridurla non solo sul NO SO2, dove proprio non c'è aggiunta di nessun genere, ma anche sul resto dei vini. Quindi è un concetto che ci ha portato ad un'evoluzione anche tecnica e di cantina. Senta Bisolle, voglio chiedere questo: voi sicuramente avrete fatto anche dei test di degustazione tra il NO, chiamiamolo così, e diciamo la produzione normale. L'ho chiesto anche prima, dal punto di vista organolettico ci sono molte differenze? Sì, allora nel nostro caso parliamo di spumanti, il nostro lavoro è proprio lavorare sullo spumante, e quello che io ho voluto mettere in evidenza con questo vino non è la coppia, ma è proprio il fatto che lui abbia una sua personalità specifica. C'è un'evoluzione praticamente del vino, perché non è più protetto. La solforosa praticamente agisce da protettore, sicché protegge, a un certo momento la solforosa poi si consuma nel vino perché l'ossigeno comunque permea dal tappo, e a un certo momento c'è un calo drastico del vino, che potrebbe succedere. Nel nostro caso invece non vogliamo che ci sia questo calo drastico, ma ci sia un'evoluzione lunga. Quindi da una parte ci vuole l'evoluzione del vino, che vuol dire no invecchiamento, ma sì maturazione. Ecco, questa è la differenza. E per fare in modo che ci sia una maturazione che diventi qualità, è doveroso riprendere il concetto che è stato proprio espresso all'inizio, che la qualità della materia prima, e nella nostra viticoltura c'è, è la cosa fondamentale. Una viticoltura di alta collina, una viticoltura di attenzione. Subito dopo c'è l'attenzione in cantina, che è un altro concetto ancora. Bene, grazie. E volevo chiedere a Alessandro Ceretto velocemente un SMS: come si fa in vigna ad eliminare lo zolfo, magari anche il rame, ad avere uve perfette? Bisogna avere tanta fortuna. Bene, bella questa risposta, mi sembra molto, molto onesta e molto così, e molto sincera. Bene, veramente un'ottima annata, un andamento climatico che permette di ridurre al minimo i trattamenti. Certo, eliminare forse è una parola un po' grossa. Bene, grazie Alessandro Ceretto e Desiderio Bisolle. Di nuovo buona giornata a tutti. Stiamo parlando di: si può produrre un vino senza solfiti aggiunti? Ecco il tema che stiamo trattando. Abbiamo visto anche, diciamo, i riflessi dal punto di vista allergologo, sicuramente dell'allergologo, che ci ha spiegato perfettamente appunto i processi che possono provocare o non provocare mal di testa. Bene, allora abbiamo con noi sentiamo Rino da Milano, radioascoltatore. Buongiorno Rino. Sì, buongiorno. Ha già in parte risposto prima. I francesi mi pare che anche loro hanno dei vini senza solfiti. Hanno vini senza aggiunta di solfiti, cioè il discorso senza aggiunta di solfiti, anzi ne hanno molti, perché diciamo che tutta la serie di produzione biodinamica e naturale dei vini naturali ha cominciato in Francia, quindi sicuramente ne hanno parecchi. Sì. Sono in vantaggio insomma rispetto a noi? No, non sono in vantaggio d'altro. diciamo che molto il mondo sta procedendo in questa direzione. Lo chiediamo a un personaggio che gira il mondo del vino, che è Donato Lanatti, docente di tecnologia enologica all'Università di Torino, nonché grande winemaker. Buongiorno Donato. Ciao, buona giornata a te e ai tuoi ascoltatori. Io proprio a te voglio chiedere: la scienza sta facendo progressi sul discorso di togliere, di fare vini senza solfiti aggiunti? Beh, l'Organizzazione Mondiale della Sanità e l'Organizzazione Mondiale della Vita del Vino, che siete a Parigi, continua a stimolare delle ricerche per produrre vini a basso contenuto di solforosa, e praticamente utilizzare soltanto in momenti mirati questo grande codivante dell'enologia, comunque, che ci ha permesso dal dopoguerra in qua di migliorare certamente la qualità dei nostri vini. Però, come ha detto prima chiaramente la dottoressa, sia può essere tossico e irritante, ma a certe quantità, e certamente oggi si cerca di limitare, ridurre al minimo per l'aspetto microbiologico, perché la solforosa è estremamente importante per mantenere a base batteri cetici e elettrolatici, perché già in vigna con un progetto favorire la produzione di antiossidanti naturali, questo aspetto si può senz'altro superare, quindi limitare l'uso della solforosa come antiossidante. Bene, rimani con noi Donato, abbiamo un produttore, no anzi sentiamo Vangelis da Gorizia. Buongiorno Vangelis. Buongiorno, buongiorno a lei e ai ascoltatori nostri. Sì, prego. Niente, io sono un produttore che da un po' di anni mi lavoro qua sul Coglio, stiamo facendo sti vini che anche a distanza degli anni abbiamo visto che mentre un primo momento la nostra preoccupazione era sulla tenuta negli anni del vino, stiamo vedendo che dopo 7-8 anni i vini si comportano ancora egregiamente, insomma, ecco. Quindi diciamo smentire il luogo comune che dice che non durano nel tempo. Grazie Vangelis, ma lo chiediamo a un produttore Armando Castagnedi dell'azienda agricola Tenuta Sant'Antonio, il quale ha messo sul mercato un vino che si chiama Telos, il vino SO2 free. Buongiorno Castagnedi. Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori. Allora, durano questi vini? Voi avrete fatto sicuramente gli esperimenti. Sì, noi è un paio d'anni che si faceva, diciamo, qualche prova e diciamo che siamo usciti quest'anno, il primo anno, con questo vino e sinceramente non abbiamo un'esperienza lunga di 7-8 anni come appena sentito dall'altro produttore del Coglio, ma noi utilizziamo quello che oggi la tecnologia e la ricerca sta dando al mercato e pensiamo che sia giusto iniziare un percorso con prudenza e diciamo comunque di sperimentazione, ma consapevoli che insomma si possa portarla avanti. Quindi lei dice, cioè, pensa a un grande futuro di questi vini? Ma secondo me in questo momento è difficile poter dire se tutta la produzione potrà essere in questo senso, però sarà sicuramente un'esperienza che potrà aiutare, per esempio, a migliorare la totalità della produzione, perché magari da qui possiamo avere delle esperienze dove invece di utilizzare le solite quantità di solforosa nella produzione generale, magari riusciamo anche ad abbattere di una certa percentuale l'uso della solforosa, già partendo dal vigneto, come ho sentito prima l'enologo della Nati, e sono perfettamente d'accordo. Bene, sentiamo Roberto da Milano, radioascoltatore, buongiorno Roberto. Signor Paolini, senta, e volevo dire questo, io quando vado a prendere il vino, lo vado a prendere dai contadini, me lo metto via in bottiglia, prendo Dolcetto, Barbera, nella zona lì di Ovada, eccetera. Tenendolo in bottiglia così, per un po' di anni, eccetera, che conservo, eccetera, questo solfito, io ne ho 78 di anni, bevo il vino normale, scompare o diminuisce? Donato Lanati, a te la risposta. Beh, innanzitutto il contadino cerca sempre di fare vino di qualità, il primo aspetto comunque di un vino di qualità è quello di salvaguardare innanzitutto la salute del consumatore anche e quello di garantire una sicurezza alimentare. Comunque direi che la solforosa nei rossi innanzitutto può essere utilizzata in minore quantità, perché i vini rossi hanno grandi polifenoli, sono loro dei grandi ossidanti oltre che antisettici. La solforosa nel tempo diminuisce e poi si combina completamente, quindi cioè, l'effetto è senz'altro inferiore, però lo scopo che ha dato questa, non vorrei che fosse né una moda quella di produrre dei vini senza solforose, nemmeno lo scoop commerciale, però questo ha dato un motivo di studio, cioè quello di capire realmente quanto un'uva sana e ben coltivata, perché il progetto poi del vigneto più che nella cantina, che deve essere di una pulizia maniacale e di una sicurezza igienica notevolissima, quello di ottenere delle uve che abbiano dei grandi antiossidanti, voglio dire che al di là dei polifenoli anche, e poi la tecnologia deve mantenere il glutatione, che è un grande antiossidante che si forma nelle uve, e così come gli acidi rossicinnamici, ecco. Allora, per capire come utilizzare meno solforosa bisogna avere maggiori conoscenze che si acquisiscono attraverso le ricerche per superare i punti critici. E quindi comunque il produttore che compra nella zona di Ovada penso che possa stare tranquillo, perché da queste parti non si superano in genere tradizionalmente mai più di 60-70 mg litri di solforosa totale. Ecco, volevo chiedere ad Armando Castagnedi, visto che il vino Telos è un vino bianco, cioè si sente sempre dire dai consumatori, di solito dicono mi viene il mal di testa quando bevo il vino bianco, secondo lei è così un modo di dire? Magari, come diceva l'allergologa, non ci si rende conto che i solfiti sono in tanti prodotti alimentari magari che si sono mangiati in quel momento, o diciamo ci può essere una punta di verità? Punto di verità sicuramente, insomma questa non è che certe annate, certe situazioni, probabilmente, poi dipende anche da produttore a produttore, si utilizza in maniera sbagliata la quantità di solforosa. Chiaramente il bianco è anche il più delicato come vino, come ha detto appunto il signor Lanati, i rossi sono sicuramente più protetti, e con i bianchi bisogna avere veramente un'attenzione particolare. E effettivamente non sappiamo, per esempio noi nella nostra scheda tecnica del vino abbiamo messo 3 anni di durata, perché abbiamo fatto delle simulazioni anche magari sbattendo a temperature alte o basse, presumiamo che possa avere una durata di questo genere, realmente un'esperienza reale non l'abbiamo ancora. Però rispetto a qualche anno fa, secondo me sono stati fatti dei grossi passi in avanti, e quindi secondo me è giusto che un'azienda, perlomeno chi ci crede, ci provi. Possa, esatto. Bene, sentiamo Franco dalla provincia di Vicenza. Buongiorno Franco. Buongiorno. Allora, io ho ascoltato prima cosa ha detto Cerretto sul fatto della fortuna di certe annate di non usare per esempio lo zolfo in vigneto. Certo, ha in parte ragione, però Angiolino avrebbe detto che sta usando concentrazione di erbe aromatiche con un distillatore e sta sostituendo questo allo zolfo e anche al rame, soprattutto perché sono, come dice lui, dei prodotti di derivazione industriale, specie lo zolfo che viene derivato dal petrolio, per cui fa inquinare un po' praticamente il vino. E un'altra cosa, io avevo partecipato alla famosa discussione fra Fabrizio Nicolaini e Cotterella di qualche anno fa, vedo che c'è stata un'evoluzione. Allora le dirò, caro Franco, le dirò che interverrà poi Riccardo Cotterella, e quindi sentiremo a distanza di anni cosa ne pensa. Nicolaini ormai non fa più il produttore, quasi. Quindi purtroppo e quindi non potrò più sentire, cioè Fabrizio non l'ha fatto intervenire, ma Cotterella interverrà molto volentieri e racconterà a distanza di 2-3 anni cosa ha maturato. Bene, grazie Franco dalla provincia di Vicenza. Io volevo segnalare un sms molto interessante. Dice: ma perché le etichette dell'acqua riportano tutte le analisi, gli ingredienti e il vino no? Le etichette dovrebbero essere più chiare. Donato, tu cosa ne pensi? Ci sono 2000 molecole che formano i profumi e 4000 al gusto, sarebbe un po' difficile arrivare. Cioè, certamente i nostri disciplinari di produzione, per esempio, che garantiscono la denominazione di origine di un vino, riportano delle analisi di base che sono veramente troppo limitate. Non si può riportare però tutto in etichette, però nei disciplinari che dovrebbero essere un giorno o l'altro rinnovati, mettere qualcosa di più per una tracciabilità sia varietale che territoriale, ma anche un aspetto di sicurezza alimentare, questo senz'altro, perché è importante per il consumatore. Il consumatore è al centro di questo mondo perché mantiene tutta la filiera. Bene, grazie a Donato Lanati e Armando Castagnedi. Eccoci di nuovo a parlare di solfiti, senza aggiunta di solfiti. Abbiamo con noi un produttore di Pantelleria, Gabriele Bini. Buongiorno Bini. Buongiorno Paolo, Davide, come stai? Bene, grazie. Bini, da quanti anni nei tuoi vini appunto si legge senza solfiti aggiunti? Da quando tu hai intrapreso questa strada? Beh, io fin dall'inizio, quando ho cominciato a fare il vino, sono un neofita del vino, perché ho cominciato nel 2005. Quindi, dopo un lungo periodo di gestazione, mi sono deciso a fare il vino e ho cominciato subito a fare il vino senza solfiti, senza nessun altro tipo di prodotto che non l'uva. Ecco, Bini, a distanza 2005, tu sicuramente avrai riassaggiato le bottiglie dell'inizio, quindi le tue prime bottiglie. Ecco, sì. Perché molti mettono in dubbio la durata del vino senza solfiti. Tu cosa ne pensi? Penso che la durata, per quanto mi riguarda, dal 2005 a oggi, le bottiglie del 2005 hanno una freschezza, sembrano fatte ieri. Ma cioè, tutto questo però non è che sia legato al fatto di non utilizzare solfiti, è il territorio che ci aiuta moltissimo, è dove è locato questo territorio, abbiamo dei collaboratori che sono l'escursione termica, che sono il terreno di un certo tipo, il vento, e non ultimo credo che senza solfiti si possa fare il vino, ma senza Belvisi Battista non si può fare il vino, è il mio agronomo col quale facciamo il vino a Pantelleria. Bene, rimani con noi. Allora, c'è stato un radioascoltatore intervenuto che ha, così, come posso dire, annunciato Cottarella, nel senso che ha ricordato, caro Riccardo, la famosa discussione con Nicola Inni di un po' di anni fa, appunto, che durante la quale tu hai detto: non ci credo che si possa fare un vino senza solfiti aggiunti. Ecco, allora ti credo, sono passati un po' di anni, la tua convinzione è sempre quella? Sempre quella, sempre quella. E credo che sia anche legato a quello che dicevo prima, cioè a un certo tipo di territorio. Magari ci sono dei territori dove questo non è possibile, però io sono lì, ho questa fortuna e uso questa procedura. Bene, no, ma io avevo pronto, Riccardo? Sì, pronto, eccomi qua. Riccardo, mi senti? Sì, ti sento bene. No, io avevo chiamato in causa Riccardo Cottarella, mi scusi Bini, avevo chiamato Riccardo Cottarella, al quale avevo detto: Riccardo, è intervenuto prima un radioascoltatore e ha detto, ricordo la discussione tra Cottarella e Nicola Inni, dove tu hai detto: non ci credo che si possa fare un vino senza solfiti aggiunti. Ti chiedo, a distanza di anni, è sempre questa la tua convinzione? Ma io non è che mi espressi proprio in questa maniera così categorica, dai, ho detto ancora non abbiamo le nozioni e le cognizioni che si possa fare un vino senza solforosa e che questo abbia, diciamo così, che non abbia delle conseguenze sull'invecchiamento, sul mantenimento sia da un punto di vista sanitario, della freschezza e dell'integrità nel tempo. D'altronde il produttore che è intervenuto parla dal 2005, ma sai, 6 anni per il vino sono come 12 anni per un uomo, insomma, c'è una vita davanti, quindi secondo me non dobbiamo lasciarci prendere né da convinzioni, diciamo, di comodo, piuttosto che da convinzioni estreme, da qualunque parte questo si guardi, questo argomento. Dobbiamo far lavorare la ricerca e la scienza da questo punto di vista. Io sono un tecnico, sono un docente universitario e come tale ho il dovere, oltre che il piacere, di dire e di insegnare anche ai miei ragazzi cosa significa aggiungere o non aggiungere il prodotto, sia da un punto di vista del suo mantenimento, sia anche da un punto di vista di quelle che sono le caratteristiche naturali e di integrità di un prodotto che deriva da un altro prodotto altrettanto naturale. Quindi, diciamo, non mi sono mai schierato né contro coloro che dicono, tanti di tuoi colleghi, non tu, che si strappano le vesti, fanno finta di strapparsi le vesti, no? Dicendo: ah, il vino è quello che deriva da lui e basta, come neanche da quelli che dicono: no, assolutamente bisogna che aggiungiamo dosi assurde di solforosa. Tenevo a sottolineare, Davide, anche un altro aspetto molto importante, che stiamo lavorando insieme con dei ricercatori alla sostituzione di questo gas, di questo prodotto della SO2, che comunque lascia un segno nel vino, no? Anche durante il suo invecchiamento e quindi anche nel consumatore, con prodotti, per esempio l'ozono, che è un prodotto che viene utilizzato nell'industria alimentare comunemente, che non lascia nessuna traccia della sua presenza. Cioè, secondo me, non possiamo così lasciare tra curva sud e curva nord, no? La scelta di un percorso che deve essere innanzitutto basato sulla scienza, sulla conoscenza, sulla ricerca, al di là di quelle che sono le convinzioni passionali di qualche produttore o le convinzioni estreme tecnologiche di qualche enologo. Ecco, volevo chiederti comunque, in questi anni dei passi in avanti sono stati fatti? Assolutamente sì, perché guarda, Davide, oggi io, te l'ho detto più di una volta, nella mia università abbiamo 25 ettari che conduciamo rigorosamente ultra biodinamica. Abbiamo una parte di vigneto proprio dove non interveniamo a far nulla, non sto a parlare dei risultati, però dobbiamo spingerci al massimo in questo caso per vedere dove si può arrivare senza compromettere nulla. Certo, passi avanti sono stati fatti, sono d'accordo con l'altro produttore che parlava di vini rossi, sui vini rossi logicamente il problema non dico che è risolto, ma è molto più vicino alla soluzione. Per i vini bianchi e per certi vini bianchi, per la loro costituzione, per essere soggetti ad alterazioni dovute a attività microbiologiche naturali che ci sono nel vino, dobbiamo stare più attenti. Senza nulla togliere al produttore prima di me che ha parlato di un territorio baciato dal Signore, l'Italia è baciata dal Signore, dalla Val d'Aosta alla Sicilia, no? Quindi se si può fare un discorso di vini senza aggiunta di solfiti, si può fare quantomeno sull'80% del territorio nazionale. perché venti, temperature, sbalzi termici, io ho la fortuna di lavorare in tante zone, che parlo soltanto dell'Etna per esempio, no? E dove c'è uno sbalzi termici che d'estate stai a dorso nudo alla sera di mettere il cappotto. Insomma, abbiamo territori che possono avvantaggiarci nella ricerca prima di essere consapevoli dei passi che dobbiamo fare. Bene, grazie a Riccardo Cottarella. Sentiamo un radioascoltatore, Matteo, dalla provincia di Vicenza. Buongiorno Matteo. Sì, buongiorno, Matteo Fongaro, dalla provincia di Verona, Ronca. Io faccio lo spumante metodo classico con un vitigno autoctono veronese che è la Durella, l'uva, Durello e il vino. E noi seguiamo l'agricoltura biologica dall'85. Quello che a me dispiace un po' di quando si parla di vini biologici, biodinamici, solforosa sì, solforosa no, è solo un messaggio che secondo me non è molto chiaro al consumatore. Cioè, che ci sia solforosa all'interno di una bottiglia di vino non è un male, dipende quanta ce n'è. Adesso mi trovo in serate che vado a fare con altri miei colleghi che ancora prima di far assaggiare il vino mettono davanti un valore aggiunto, cioè che è di agricoltura biologica, che è biodinamico e quant'altro, cosa che secondo me è sbagliatissima. Il vino deve essere buono di suo, che dopo uno segua un certo tipo di lavorazione deve essere appunto un valore aggiunto. Bene, grazie. No, un complemento. Matteo, grazie, perché voglio passare la parola a Bini e rispondere a lei in un certo senso. Eccomi. Bini, ha sentito Matteo, sì. Ha detto che mettere avanti, appunto, lei cosa ne pensa? Ma vedi, dicono tutti delle cose molto giuste, però sono tutte cose che poi ci portano ad avere dei prodotti che comunque sia sono in un certo modo manipolati, sia da prodotti, sia da macchinari, da procedure che tendono, come diceva il professore universitario poco fa, a dare lunghezza di vita al vino. Ma non credo che anche quello non sia una cosa essenziale, insomma, il formaggio ha la sua vita, il vino ha la sua vita, perché non aggiungere prodotti che conservano di più le fragole o qualsiasi altra cosa. Bene. Il fatto è che io penso che il vino, perché poi c'è anche un'altra cosa da dire, noi parliamo di solfiti, di solforose e non parliamo di altri prodotti che sono previsti dalle normative, sono circa 200, in questi 200 non c'è prevista l'uva, per cui il vino si può fare anche senza uva. Bene, grazie. Con questa conclusione di Gabrio Bini, mi spiace per Vittoria da Milano, Francesco da Bari, che erano in attesa telefonica. Bene, sarà per la prossima volta, perché è un argomento che a distanza anche di 2-3 anni appassiona sempre. Ogni volta vediamo dei passi in avanti, quindi è giusto riparlarne perché è molto ma molto sentito. Bene, io vi auguro un buon weekend, vi do appuntamento domani con il riposo del guerriero alle 11:15 e ogni giorno con la pillola alle 11:05 e alle 23:05. Un caro saluto da Davide Paolini. Gran Moravia, gran formaggio, da Brazzale, 2 secoli di tradizione. Vi ha presentato il Gastronauta.